musica, maestro. We'll be right back. passione ti si pone. Se non la vivi sei un tipo strano, tipo strano. Elevated. Elevated. Elevated. cattiva, ma il tuo sguardo non sentiva. Che brutto tempo che sento dentro, quando mi dice non ti amo più, non sento più, non voglio più essere accesa, usata e spenta come una TV. Che brutto tempo che sento dentro, ma quanto tempo, ma quanto tempo insieme a te per capire solo che tu provi amore, tanto amore, un grande amore solo per te. E guardo il cielo e penso che non c'è più tempo per star con te. E guardo il cielo e penso che non c'è più tempo per star con te. E poi ci penso e ci ripenso e poi ripenso che è meglio se ci penso, ma quanto penso. Italia Network. questa canzone mi piace dentro, il suo messaggio mi coglie in centro, il suo ritmo mi batte dentro. Ora scusate, non ho più tempo. Questions that we don't know. Tenete a posto le mani, ci sentiamo domani.